Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ucciso questa notte nel Milanese l'attentatore di Berlino, fermato per un controllo, ha sparato, gli agenti hanno risposto al fuoco, ferito un poliziotto, l'altro ha reagito. Gentiloni dice: l'Italia c'è, lo Stato c'è, siamo impegnati sulla sicurezza, attenzione massima, le minacce non sono sottovalutate, telefonata tra il Premier e la Merkel. Dirottato un volo interno libico e atterrato a Malta, a bordo 118 persone, i dirottatori avrebbero minacciato di far esplodere il velivolo. MPS arriva allo Stato, ha approvato ieri il decreto con tutele per gli obbligazionisti, ma l'Europa frena, paghino azionisti e subordinati come da norme per il bail-in. Delitto di Garlasco, c'è un nuovo indagato dopo le perizie sul DNA presentate dalla famiglia Stasi. Si tratta di un amico del fratello della vittima, Chiara Poggi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it. In apertura dunque l'uccisione nel Milanese dell'attentatore di Berlino, Amri. Andiamo prima di tutto, prima ancora di andare a sentire a Sesto San Giovanni il nostro inviato che ci racconta come stanno le cose dal luogo dove sono avvenuti i fatti, alla conferenza stampa che è in corso da parte della polizia di Milano. Appena parlato il questore, sentiamo. In Magrebina si sono decisi per effettuare un controllo più approfondito, fermando la persona e chiedendogli i documenti. La persona ha risposto, insomma, di non aver con sé alcun documento e parlava con un buon italiano oppure con un accento ovviamente estero, nordafricano. A quel punto ovviamente l'approfondimento del controllo si è fatto più serrato, nel senso che è stato chiesto ovviamente di svuotare lo zainetto che portava con sé, di svuotare le tasche, secondo la procedura ordinaria che si fa in tutti questi casi. In quel momento lo straniero era assolutamente tranquillo, quindi ha iniziato a svuotare il materiale dalle proprie tasche e dallo zainetto e con mossa repentina e assolutamente inaspettata ha estratto un'arma carica e ha colpito con un singolo colpo di pistola il capo pattuglia, che era quello più prossimo a lui. Questo voglio mettere in evidenza, la pistola era già carica, pronta all'uso. Questa è una... L'ha estratta verosimilmente dallo zainetto, quindi gli si è materializzata in mano. Riteniamo che possa averla estratta dallo zainetto, però non si può escludere che l'avesse addosso, se non che il capo pattuglia è stato raggiunto da questo colpo di pistola alla spalla destra e benché ferito è riuscito a estrarre l'arma e a esplodere un colpo. E a esplodere un colpo d'arma da fuoco. Lo straniero ha tentato di nascondersi dietro la macchina per poter colpire nuovamente gli agenti, magari in maniera definitiva. E l'altro agente ha fatto il giro della macchina e prontamente ha risposto al fuoco anche lui, colpendo a questo punto mortalmente lo straniero, insomma. E questa è la dinamica del fatto. E due colpi ci risultano. Quindi adesso l'esame autoptico ci darà conferma, sicuramente un colpo è stato mortale all'altezza del costato. E adesso vediamo poi quale organo abbia colpito in maniera pressoché definitiva, perché è espirato dopo una decina di minuti, insomma. E questa dunque è la conferenza stampa della polizia in diretta che abbiamo preso dalla diretta che sta facendo Sky. Noi adesso andiamo proprio nel luogo dove sono avvenuti i fatti e dove si trova il nostro Adriano Palazzolo. Adriano, che situazione c'è? Che cosa hai trovato? Adriano, vai. Buongiorno, io mi trovo nel piazzale del capolinea degli autobus della stazione di Sesto San Giovanni, un comune che da Milano si raggiunge tranquillamente con la metropolitana. qui, dopo le vicende di questa mattina, si cerca di tornare alla normalità. Gli autobus hanno ricominciato le proprie corse, ma ci sono ancora tanti curiosi e i pendolari che si fermano per dare un'occhiata al luogo preciso della sparatoria, dove a terra ci sono ancora chiazze che vengono portate via dalle ruote dei pullman e dei furgoni che passano ormai tranquillamente da quella zona che prima era transennata e dove fino alle 11 c'era il corpo di Amri. Lì accanto c'è anche un mercatino di biancheria che ha ripreso tranquillamente la propria attività, quindi la situazione qui a Sesto San Giovanni sta tornando normale. Allora io ti ringrazio per questo aggiornamento, Adriano Palazzolo. Allora vediamo intanto se prima di andare da Andrea Viali per sentire poi anche quali sono le reazioni, che cosa ha detto il Presidente del Consiglio, riusciamo a tornare alla conferenza stampa della Questura, il Questore di Jesu. Altro, anche se mi voglio dire sottoponete a una rigida, a un rigido interrogatorio, non ve ne darò. Questo è oggetto di valutazione, dobbiamo capire se è un treno diretto, se ha avuto altre tappe, e questa è materia di investigazione. Sicuramente è passato per la Francia, non sappiamo se è partito dalla Francia, è passato dalla Francia e lo collochiamo a Milano Stazione Centrale intorno all'una di stanotte. Però al momento sono più in metropolitana. Come arriva a Sesto San Giovanni? C'è un servizio sostitutivo di autobus. Signori, per favore. Questo è il quadro appunto della logistica degli spostamenti di Amri a Milano. Come avete sentito, passato dalla Francia, le notizie hanno raccontato appunto che è passato da Chambéry, però non si sa da dove esattamente sia arrivato. Sarà un altro snodo interessante da analizzare, perché la Francia nell'immediatezza, subito dopo gli attentati di Berlino, l'attentato di Berlino, aveva dichiarato che avrebbe elevato i controlli al confine con la Germania. Evidentemente questi controlli non sono bastati, perché Amri è riuscito a passare, è arrivato, come avete sentito dal questore, a Milano, dal questore De Jesu di Milano, è arrivato a Milano in Stazione Centrale all'una di notte e poi era a Sesto San Giovanni intorno alle 3, alle 4 del mattino. Per chi non avesse sentito, perché poi l'audio non era buono, qualche giornalista ha chiesto come avesse fatto Amri ad arrivare poi a Sesto San Giovanni e perché la metropolitana è chiusa. Ebbene, c'è molto semplicemente, come in tutte le grandi città, un servizio sostitutivo. Veniamo alle reazioni italiane, poi andremo a cercare di capire per quanto possibile come mai fosse arrivato proprio a Sesto San Giovanni. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La conferma ufficiale dell'uccisione di Amni Samri è arrivata stamattina dal ministro dell'interno Minniti, che ha convocato una conferenza stampa al Viminale. Minniti ha anche sentito stamattina al telefono Cristian Movio, che è il poliziotto rimasto ferito in questa sparatoria. Quanto successo a Sesto San Giovanni dimostra che l'apparato di sicurezza nel nostro paese funziona, ha detto il responsabile del Viminale, che naturalmente si è anche voluto complimentare con i due agenti. Ma sentiamo le sue parole. Noi guardiamo a questi due ragazzi, all'equipaggio della volante, come persone straordinarie, di giovanissima età, che facendo semplicemente il loro dovere hanno fatto un servizio straordinario alla comunità. Penso sinceramente di poter interpretare in questo momento il sentimento del nostro Paese nel dire a questi nostri due poliziotti che l'Italia è a loro grata. E a commentare questa vicenda è stato subito dopo anche il Presidente del Consiglio Gentiloni. Anche lui ha convocato una conferenza stampa in mattinata a Palazzo Chigi. Sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. Credo che quanto è accaduto a Sesto San Giovanni metta chiaramente in evidenza l'importanza di un accresciuto controllo del territorio, della collaborazione tra le diverse forze di sicurezza e le forze armate e dell'importanza di accentuare la collaborazione anche a livello internazionale. Agli italiani che si accingono a qualche giorno di ferie per le festività, voglio dare la certezza che il governo farà del suo meglio. Siamo impegnati su fronti diversi, il fronte del lavoro, della tutela del risparmio, della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto e più che mai siamo impegnati sul fronte della sicurezza, un fronte su cui abbiamo registrato una convergenza parlamentare larga. Così sicurezza e coesione infatti devono andare di pari passo. Così dunque il Presidente del Consiglio Gentiloni, intervenuto questa mattina, agli ascoltatori che ce lo chiedono, forse non l'abbiamo chiarito bene nel ricostruire la dinamica, in effetti non si è trattato di un'operazione di intelligence ma si è trattato di un controllo del territorio, un normale controllo del territorio, come hanno raccontato anche lo stesso Questore De Jesu in una parte di conferenza stampa che è venuta prima di Effetto Giorno e che non siamo stati in grado dunque di farvi sentire. È stato un controllo, la persona è stata fermata, gli sono stati chiesti i documenti non li aveva e poi tutto quello che avete sentito anche nelle parole della polizia, quindi una normale operazione di controllo del territorio. Resta il tema che cosa faceva Amri a Sesto San Giovanni. Ci colleghiamo con Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore. Angelo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Mi sembra che gli inquirenti stiano cercando di capire esattamente questo adesso, no? Beh, questo è l'interrogativo più importante in queste ore, soprattutto nelle prime fasi dell'indagine. Sono quelle fasi nelle quali non si può escludere nessuna ipotesi, per cui capire che cosa ci facesse il killer di Berlino a Sesto San Giovanni a quell'ora è, diciamo, il punto di snodo dell'indagine. Ci sono diverse ipotesi, come dire, non si può escludere nulla al momento, la casualità oppure il fatto che lui stesse cercando protezione presso qualche cellula islamica presente nel territorio vicino a Milano. Sicuramente quel luogo, la stazione di Sesto San Giovanni, come ha ricordato il questore di Milano nella conferenza stampa che è in corso adesso, è uno dei luoghi sensibili, è diciamo un posto sicuramente sotto il controllo delle forze dell'ordine, perché probabilmente è un posto dove ci sono obiettivi o anche persone sensibili da controllare. Abbiamo detto che questo è stato un controllo casuale, un controllo di routine. Amri però è arrivato a Milano e poi a Sesto San Giovanni in treno, quindi ci si chiede come abbia fatto anche a passare i controlli, poi come ci si sia spostato dalla stazione centrale di Milano, come sia arrivato a Sesto San Giovanni. Ci sono 7 chilometri di distanza tra la stazione centrale di Milano e la stazione di Sesto San Giovanni. Il dato certo, come ha riferito il questore poco fa, è che Amri viene localizzato a 1 di notte alla stazione di Milano. Da quel momento non si sa come si sia spostato, se l'abbia fatto da solo, l'abbia fatto con l'aiuto di qualcun altro. Al momento in cui è stato identificato, Amri era solo, chiaramente non c'era nessuno con lui, ma sicuramente era qualcuno che cercava protezione, Amri cercava protezione. Ed il tema, mi sembra, appunto, Angelo, qui ti ringrazio, è esattamente questo, capire che cosa ci facesse a Sesto, se fosse proprio Sesto il luogo nel quale stava cercando protezione. Di tutto questo torneremo a parlare ancora tra poco più avanti in Effetto Giorno. Intanto le notizie che arrivano da Malta, dove il primo ministro, la notizia è stata data dal primo ministro e poi confermata, c'è stato un dirottamento di un volo interno libico che è arrivato appunto a Malta e atterrato all'aeroporto della Valletta. A bordo ci sono 118 persone. I dirottatori sarebbero 2, sarebbero in possesso di granate e starebbero minacciando di far esplodere il velivolo. Aggiornamenti maggiori appena ne avremo, naturalmente. Intanto torniamo alle vicende più strettamente italiane, iniziando dal Monte dei Paschi. L'intervento dello Stato non era sicuramente la prima opzione, però ci darà la possibilità di procedere con lo smaltimento dei crediti deteriorati e di avere una posizione più forte. Parole dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Marco Morelli, in un videomessaggio ai dipendenti dopo il salvataggio di Stato, deciso nella notte dal Consiglio dei Ministri straordinario, preso atto del fallimento della ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro. Il decreto salva risparmio crea un fondo da 20 miliardi per le banche in crisi ed MPS, come vuole la procedura, ha già deliberato la richiesta di sostegno finanziario straordinario. Con l'ingresso dello Stato saranno penalizzati gli azionisti, che vedranno diluito il loro capitale, e gli investitori istituzionali, che posseggono obbligazioni subordinate, convertite in azioni al 75% del loro valore, mentre saranno tutelati al 100% i piccoli risparmiatori che detengono quei titoli. Il ministro Piercarlo Padoan. Gli obbligazionisti, gli risparmiatori avranno in mano una obbligazione ordinaria del medesimo valore, quindi 100 a 100. Le modalità dell'intervento, ha precisato il premier Paolo Gentiloni, sono state concordate con le autorità europee, alle quali MPS dovrà presentare un piano industriale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E però Marco Ferrando del Sole 24 Ore, abbiamo queste dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo, Jerom Dijsselbloem, che rispondendo ad una domanda dice le regole impongono prima la necessità di un bail-in degli azionisti e degli obbligazionisti junior, ossia i subordinati. Secondo te l'accordo con l'Europa c'è davvero? Sembra di sì, stando alle parole di Padoan. In realtà bisogna capire quanto le due posizioni, quindi quella di Padoan e quella di Dijsselbloem, sono compatibili, nel senso che da quello che si è capito, per ora bisogna dire non tutto, del piano di salvataggio, in realtà un coinvolgimento degli azionisti c'è, perché nel momento in cui entra lo Stato con una cifra che si stima 6, forse 7 miliardi, l'azionista ha un pregiudizio perché viene marginalizzato, cioè si profila una situazione tipo le Venete, quindi azionisti attuali al 2-3% e tutto il resto o allo Stato o agli obbligazionisti convertiti. Stesso discorso per gli obbligazionisti, che comunque un po' di rischio se lo prendono, visto che soprattutto gli istituzionali si vedono decurtato del 25% il valore dei titoli che hanno in mano. Quindi in teoria le due posizioni sarebbero compatibili, bisogna capire se però la Commissione europea vorrà avere una posizione dura oppure no. Da quello che si capisce in queste settimane, in questi giorni in cui gli emissari del governo italiano e quelli della DG Comp hanno trattato sul caso Montepaschi, c'è stata una linea un po' più aperturista rispetto al passato. Non dimentichiamo che per i Monti Bond l'Italia dovette trattare un anno e mezzo con la Commissione europea, quindi insomma in passato queste partite sono state molto complicate. Vedremo dunque che cosa succederà. Grazie dunque a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per questo punto. Più avanti torneremo anche alle altre notizie, a partire dal delitto di Garlasco, parleremo della giunta romana, vi parleremo anche dell'indagine sul neo ministro Lotti, ma prima veniamo al calcio. Va Carlo Genta, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Sembriamo un po' fuori luogo, però insomma c'è stato campionato e poi alle 17:30 c'è una partita molto attesa, cioè c'è la finale di Supercoppa italiana, si gioca a Doha di fronte Milan e Juventus, è l'ultimo impegno di questo anno calcistico. Ieri abbiamo visto una giornata di campionato, un'infrasettimanale estremamente interessante con una partita bellissima, da molti definita la più bella di questa stagione, il 3-3 di Firenze tra Fiorentina e Napoli, all'insegna di un Bernardeschi superstar. Ottime notizie anche da Insigne, insomma ottime notizie per Ventura. La Roma ha battuto, ha ripreso la marcia, ha battuto 3-1 il Chievo. Poi c'è il Cagliari che in un'altra partita abbastanza pazza ha battuto 4-3 il Sassuolo, l'unico 0-0 di serata, quello tra Sampdoria e Udinese, mentre il Torino, di nuovo nel segno di Belotti, quindi altra buona notizia per Ventura, batte 1-0 il Genoa. La Juventus, oggi impegnata nel deserto, continua a comandare con una partita in meno con 42 punti, Roma 38, Napoli 33 e via tutte le altre. E grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati, adesso ci fermiamo, c'è il traffico, poi verremo naturalmente con le altre notizie e torneremo anche sulla vicenda dell'uccisione dell'attentatore di Berlino appunto a Sesto San Giovanni. Ne parleremo innanzitutto col presidente della comunità religiosa islamica italiana di Milano, proprio per fare un punto e per cercare di capire anche da lui in che ambiente arrivava Amri. A tra poco. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente dell'uccisione nel milanese di Amri, l'attentatore di Berlino, fermato per un controllo, ha sparato e gli agenti hanno risposto al fuoco. Abbiamo parlato delle reazioni del ministro dell'interno e del presidente del consiglio, ci siamo occupati di MPS. Adesso, proprio su quello che è successo questa notte, torniamo questa notte a Sesto San Giovanni. Siamo in linea con Yahya Pallavicini, che è presidente del Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. Allora, siamo in un territorio, quello milanese, Pallavicini, che quello milanese e quello lombardo in genere, che ha prodotto il più alto numero di foreign fighters italiano, una quindicina complessivamente, e dove abbiamo visto che negli ultimi mesi si sono svolte tutta una serie di operazioni contro il terrorismo jihadista. È ipotizzabile, secondo lei, che conosce anche il territorio, che Amri cercasse protezione, visto che il luogo Sesto San Giovanni non è esattamente un luogo di passaggio, per così dire? Non lo escludo, anche se, devo essere sincero, prevale da parte mia e da parte della mia comunità una soddisfazione per, se non altro, l'esito almeno di aver intercettato e bloccato questo criminale, addirittura che si era avvicinato qui in Italia, in Lombardia. Il fatto che, come lei stesso diceva, ci sia stata qualche minoranza di follia omicida, di jihadisti che abbiano pensato di abusare della religione per andare poi a combattere, e che possono essere il terreno fertile per cercare di adescare o di dare rifugio ad altri criminali, è una possibilità che non mi sento di escludere. Oso dire che io sono più soddisfatto del fatto che invece sia stato bloccato e che la comunità dei credenti e dei cittadini onesti, compresi musulmani italiani e milanesi, possono vivere serenamente, persino in termini ecumenici, questo Santo Natale. Questo Natale, immagino. Senta, ma quello che vorrei capire, e quello che ci chiedono anche tanti ascoltatori via SMS, ma c'è un pezzo della comunità islamica che rappresenta un brodo di coltura per tutto questo, cioè dove non tutti necessariamente diventano degli jihadisti, dove però si incuneano appunto delle tendenze estremistiche? Ma diciamo che la maggior parte dei cittadini e dei credenti musulmani, anche in Italia e in Europa, sono persone sane e intellettualmente oneste e credenti semplici o anche magari più qualificati, che però vivono la loro fede come dimensione appunto di un valore, di una virtù. Purtroppo che siano questioni ambigue di immigrazione non regolare, o siano questioni di disadattamento sociale con affinità o collusioni con la microcriminalità, o che sia il lavaggio del cervello di qualche stupido predicatore che pensa di invece dare un'interpretazione apologetica della religione islamica intesa come rivoluzione, questo è un marchio, è un cancro per fortuna molto limitato in Italia, che però, anche se è limitato, come lei stesso diceva, ha prodotto 15 persone, una recente condanna di un'italiana addirittura che aveva pensato di aderire a queste forme di ideologizzazione della religione, e quindi in queste aree un po' più zone d'ombra, ecco, le chiamerei, bisogna effettivamente da un lato chiarire, quindi la nostra azione è quella di distinguerci, e poi dall'altro lato di fare un processo di antiradicalismo, osservazione e denuncia. Voi denunciate Pallavicini quando percepite che c'è qualcosa che non gira? Ma noi, questo è un dovere del buon cittadino e del buon credente, quello comunque di, nel distinguersi, anche denunciare, fermare il male e soprattutto denunciare coloro che poi vanno a abusare della nostra identità, sia in quanto cittadini che in quanto credenti che in quanto musulmani. La ringrazio. Quindi, in questo noi collaboriamo con le istituzioni. La ringrazio. Grazie a Yahya Pallavicini, presidente Coreis della comunità religiosa islamica italiana. Veniamo alle altre notizie. Innanzitutto c'è questa indagine della quale riferisce il Fatto Quotidiano oggi. Il neo ministro Luca Lotti è indagato, secondo il giornale, per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Napoli sulla corruzione in Consip. Come si diceva, lo riporta il Fatto Quotidiano. Il fascicolo conterrebbe le ipotesi di reato sulle fughe di notizie ed è stato stralciato dal filone principale sulla corruzione ed è finito a Roma per competenza territoriale. Replica lo stesso Lotti: sarà indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, una cosa che semplicemente non esiste. Inutile stare a fare dietrologie o polemiche, chiedo di essere sentito oggi stesso. E adesso andiamo a Roma, perché ci sono problemi che riguardano la Giunta Raggi e riguardano anche il Capodanno. Se mi chiamano, sono pronta ad andare in procura. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, dà così la disponibilità a collaborare con la procura della capitale sull'inchiesta che ha coinvolto l'ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di corruzione. Non si placano intanto le polemiche sul concertone di Capodanno, annullato per la prima volta in 20 anni. L'appuntamento capitolino per festeggiare l'arrivo del nuovo anno è saltato perché alcuni sponsor hanno fatto un passo indietro. Roma è una città sull'orlo del fallimento, spiega l'assessore all'urbanistica Paolo Bertolini. Per questo gli sponsor fuggono via. L'assessore alla cultura e vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, dice che il concertone è saltato perché si è voluto evitare l'affidamento diretto. Sulla notte di San Silvestro la Giunta Raggi però non demorde e rilancia. Festa di 24 ore sui ponti di Roma. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo a Garlasco adesso, il famoso caso, c'è un nuovo indagato. Una storia infinita, quella del delitto di Garlasco. Si apre infatti un nuovo scenario che porterebbe ad altri sviluppi in una vicenda che sembra non aver fine. In base a quanto emerge dalla seconda inchiesta aperta dalla Procura di Pavia, che ha accolto l'esposto della mamma di Alberto Stasi, c'è una novità che coinvolge un amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Il profilo genetico di questo amico, secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, coincide con i frammenti del DNA trovati sotto le unghie di Chiara. Il giovane, che era già stato interrogato 2 volte dai carabinieri, è stato iscritto nel registro degli indagati. La prima inchiesta sull'omicidio, come ricorderete, si era conclusa con la condanna definitiva a 16 anni di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara e detenuto dallo scorso dicembre nel carcere di Bollate. Dario Ceccarelli, Radio 24. Sole 24 ore. Adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire che cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, torneremo a parlare di terrorismo e lo faremo con un esperto, con Lorenzo Vidino, che è il direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University a Washington appunto, e poi faremo anche un pezzo del nostro giro per l'Italia, perché andremo a Conegliano, dove ai commercianti viene chiesto, abbiamo appreso oggi, la tassa sulla luce che viene proiettata dalle insegne sul marciapiede, una roba incredibile. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: è stato ucciso questa notte nel milanese l'attentatore di Berlino, fermato per un controllo, ha sparato, gli agenti hanno risposto al fuoco, ferito un poliziotto, l'altro ha reagito uccidendolo. Riferisce il questore di Milano, ha riferito il questore di Milano pochi istanti fa, che non risulta che abbia urlato alla Akbar, ma ha urlato invece poliziotti bastardi, e poi appunto è stato ucciso. Parla anche il presidente del Consiglio Gentiloni, dice l'Italia c'è, lo Stato c'è, siamo impegnati sulla sicurezza, attenzione massima, le minacce non sono sottovalutate, telefonata tra il premier e la Merkel. Intanto è stato dirottato un volo interno libico, è atterrato a Malta, a bordo 118 persone, i dirottatori avrebbero minacciato di farlo esplodere, avrebbero delle granate. Monte dei Paschi, arriva lo Stato, ha approvato il decreto con tutele per gli obbligazionisti, l'Europa in parte frena, paghino azionisti e subordinati come da norme per il bail-in. Il delitto di Garlasco, infine, lo avete sentito poco fa, c'è un nuovo indagato dopo le perizie sul DNA presentate dalla famiglia Stasi, si tratta di un amico del fratello della vittima, Chiara Poggi. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. vi presenta Guardiamo al futuro, verso un futuro migliore per tutti. Perché noi, in Bristol Myers Squibb, ci impegniamo a scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci che aiutino pazienti affetti da gravi malattie. Una passione vera che guida il nostro lavoro e ci spinge a perseguire importanti risultati. I nostri successi si misurano grazie alla differenza che facciamo nella vita dei pazienti. È questo il nostro riconoscimento più grande. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, un nome che racchiude tradizione e innovazione, viti dalla storia antica e metodi moderni. Una passione che dà vita a un vino prodotto con regole precise per rendere ogni bottiglia di Franciacorta una vera eccellenza italiana. Vai su ilsole24ore.com/Franciacorta e scopri Franciacorta, una storia di passione. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, e di nuovo a parlare di terrorismo. Lo facciamo con Lorenzo Vidino, che è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University. Buongiorno Vidino, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, per parlare soprattutto di questo, che è la domanda che ci stiamo facendo più o meno dall'inizio e che si stanno facendo tutti, c'è stata l'uccisione, come abbiamo ampiamente raccontato, di Amri, il presunto attentatore di Berlino, ucciso dalla polizia in un controllo normale, ma non in una grande città che potrebbe essere un luogo di passaggio, ma a Sesto San Giovanni. Siamo nella cintura milanese. Secondo lei c'è una possibilità che Amri stesse cercando coperture in quel posto? Difficile dire al momento, devo dire, avendo parlato con un paio di elementi della nostra antiterrorismo, devo dire che non mi sembra che ci sia una risposta al momento. È chiaro che, come dicevate, il fatto che non si trovasse alla stazione centrale di Milano, ma a una stazione periferica, vicina comunque, perché dalla stazione centrale di Milano arrivare a Sesto San Giovanni ci vuole poco, fa pensare che potenzialmente Amri, che conosceva il nostro paese, che era stato per anni nel nostro paese, anche se la maggior parte del tempo in prigione, pensasse o sperasse di avere un qualche supporto logistico, un qualche sostegno in una zona che tradizionalmente ha visto una forte presenza estremista. Perché però... proprio questo è il punto sulla quale anche la volevo, Vidino. È proprio la zona, insomma, l'area del Milanese e un po' più in generale della Lombardia. Si diceva già prima, la regione, la Lombardia, che conta il più alto numero di foreign fighters in Italia, no? Una serie di operazioni appunto contro il terrorismo islamico e una serie di arresti che ci sono stati. C'è uno snodo che riguarda l'area milanese nello specifico? Assolutamente, c'è una storia che risale ai primi anni 90 ed è legato alla moschea di Viale Jenner, che in quegli anni era la moschea principale che reclutava per il jihad, soprattutto in Bosnia. Parliamo di preistoria del jihadismo, ma diciamo che quel mondo è rimasto, sono cambiati dei personaggi, ci sono stati degli avvicendamenti, ma da sempre Milano in particolare, e comunque l'Interland milanese, ha una forte presenza di soggetti radicalizzatori e poi, essendoci una larga popolazione islamica, di soggetti, chiaramente un piccolo numero, non per tutta la popolazione, ma alcuni soggetti che sono attratti dall'ideologia jihadista, quindi i foreign fighters, una ventina, trentina di foreign fighters che vengono dal milanese, che sono andati in Siria a combattere, una serie di operazioni in tutta la Lombardia abbastanza serie, una nel Lecchese di qualche mese fa, in cui si pianificavano attentati. Insomma, c'è una storia di 25 anni che non senza un'interruzione, e che comunque anche negli ultimi anni ha visto la provincia di Milano in particolare come il crocevia del jihadismo in Italia. La ringrazio, grazie a Lorenzo Vidino per essere stato con noi, direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University, e anche per questi chiarimenti. Noi adesso, dato che siamo alla vigilia della vigilia di Natale, ce la pigliamo anche un po' più leggera e andiamo anche su altre storie. Il nostro giro per l'Italia ci porta a Conegliano, una storia leggera, poi si fa per dire, diciamo leggera come un'ombra o come una luce, la luce proiettata dalle insegne dei negozi, che a quanto pare a Conegliano è tassata. Luca Ross dell'Associazione Commercianti di Conegliano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma mi faccia capire, vi tassano la luce che proiettate sui marciapiedi? No, in realtà non è proprio così. Ci tassano non la luce che proiettiamo sui marciapiedi, ma bensì l'ombra dell'insegna che praticamente riflette e occupa lo spazio pubblico. No, e quindi il marciapiede. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Purtroppo è così, e non riguarda solamente Conegliano, ma riguarda, a quanto abbiamo potuto capire, tutta Italia. Quindi io faccio anche appello proprio ai miei colleghi commercianti di tutta Italia di verificare le bollette di Abaco, nel nostro caso, ma bensì di tutte quelle società che si occupano della riscossione dei tributi locali, perché controllino che questa tassa sia applicata, perché a quanto pare è proprio così. È proprio così. E vi hanno mandato anche una richiesta di pagamento retroattiva, ho capito bene? Assolutamente sì, perché il tutto nasce proprio da questa faccenda. Quindi un nostro associato del comune di Conegliano si è visto recapitare una bolletta con una sanzione addirittura retrodatata al 2014, in quanto in tale data c'era stato il cambio del passaggio della società che gestiva questo tipo di tributi locali, e hanno fatto chiaramente una verifica su queste insegne, e quindi dal 2014 hanno trovato che questo commerciante non aveva pagato questa tassa. L'importo di per sé quanto è ammonta? L'importo sono 52-54 euro. E a chi vanno? Vanno allo Stato? Vanno a chi vanno? Al comune? No, dovrebbero andare al comune, che poi dovrebbe girare chiaramente allo Stato. Qualcuno ci dice succede anche a Verona, ma immagino, come mi diceva lei, che succede un po' in tutta Italia. No, è di tutto, è per quello che noi abbiamo sollevato, non tanto per la questione del tributo, che di per sé se va pagato, però è il buon senso, che credo che una volta che si paga l'insegna non si possa andare assolutamente a pagare anche il diametro dell'insegna, perché una volta che si paga, perché c'è anche, secondo me, è da rivedere, e qui mi appello chiaramente a chi di dovere, chi si occupa di questo in Parlamento, che si vada a riverificare, a ritarare quelle che sono po' queste logiche, perché obiettivamente è abbastanza, noi siamo abbastanza degli surreale, imprenditori, però non siamo dei benefattori, perché su queste cose credo che tutti ci possono dire, però insomma su queste cose credo che non ci siamo, insomma, ecco. Deve essere ritarata, deve essere riverificata e rimessa in ordine questa cosa. Grazie Luca Ross, presidente dell'Associazione Commercianti di Conegliano, per essere stato con noi. E in chiusura ci spostiamo a Piacenza. Allora, io sono rimasto molto colpito da questa vicenda, forse è un, come dire, è una questione privata in luogo pubblico, perché giusto ieri sera mio figlio si lamentava per la quantità inenarrabile di compiti che gli sono stati dati per le 2 settimane di vacanze di Natale, che poi alla fine non sono nemmeno un granché. 12 anni, seconda media, gli avrebbe fatto piacere probabilmente avere Ludovico Silvestri come dirigente scolastico delle scuole medie Alberoni, Anna Frank, Nicolini e Mazzini di Piacenza, che è in linea con noi. Buongiorno Silvestri. Buongiorno. Che ha deciso, che ha mandato proprio una circolare a tutti i professori dicendo: voi i compiti per le vacanze non li dovete dare. Perché? Ma allora, fondamentalmente io non ho detto non li dovete dare, è stato piuttosto un invito a cercare di non dare compiti ai ragazzi, o comunque a limitare il tutto al minimo indispensabile. Io sono dell'idea che le agenzie educative siano due: la scuola, ma prima ancora la famiglia. E se la famiglia deve avere degli spazi di educazione, vanno dati sicuramente in questi momenti in cui si è un po' più liberi dallo stress di ogni giorno e si ha la possibilità di stare magari un po' di più con i figli. Poi peraltro, come diceva lei, questi 14 giorni sono solamente sulla carta, perché tra una festività e l'altra il tempo passa velocemente, i ragazzi, per poter fare tutti i compiti a casa, devono stressarsi anche in quel momento. Non mi sembrava corretto, specie considerando che durante l'anno vengono tartassati parecchio, cioè noi richiediamo ai ragazzi un impegno che è molto aumentato negli anni. Come l'hanno presa gli insegnanti? Ma guardi, molti l'hanno presa positivamente, perché alcuni già lo facevano. Altri hanno storto un po' il naso perché sa, le novità sono sempre prese con un attimo di titubanza. Ovviamente qualcuno l'ha fatto anche con delle sue motivazioni precise, però alla fine grosso modo il messaggio è stato recepito. Il messaggio complessivamente, noi rispettiamo sempre tutte le posizioni, quindi anche. Ma quindi qualche ragazzo sfortunato che ha gli insegnanti che hanno deciso di dare i compiti c'è? Beh, qualcuno sì, però fortunatamente hanno limitato di parecchio quello che è il carico lavorativo che in prima battuta era stato individuato, quindi diciamo che fondamentalmente l'appello è stato accolto. Io peraltro ho fatto Mi scusi perché questo è il grande tema, non fa la stessa circolare anche per l'estate, vero? Per l'estate il discorso è un po' complesso perché effettivamente 3 mesi possono essere tanti, quindi noi lì cerchiamo di rimanere sulla moderazione, perché per noi la moderazione, l'equità, l'equilibrio è la chiave che ci deve condurre nella gestione del lavoro e dell'attività educativa e didattica. La ringrazio, grazie Ludovico Silvestri, dirigente scolastico delle scuole medie Alberoni, Anna Frank, Nicolino Mazzini di Piacenza. Per chiudere, una buona notizia che arriva da Malta: i dirottatori dell'aereo libico deviato su Malta hanno concordato di rilasciare tutte le 118 persone a bordo e di deporre le armi. Lo scrive il sito di Malta Today. Vedremo se questa notizia sarà poi confermata. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.